faccia, andiamo ai vostri posti, o belle, ai vostri posti. La mamma, dammi il braccio. Eccola. E ne avrai. Io sono di glaccio. Contessa. Tratto colore.